Il sabato del villaggio. Dai, dai, poche parole, lanciamo subito la sigla di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora del sabato del villaggio si cambia abito e diventa RadioTube, tanto l'abbiamo già sentito Daniele. Ma che è arrivato. Ma lo cambi davvero? Tu riesci a uscire, a entrare all'ultimo secondo possibile? Sì, prima ti sei spaventato perché hanno detto tantissimo, che mancavano 20 secondi. È da quello che si vede se uno sa fare il conduttore, perché la conduttrice della RAI. Perché capisci che 20 secondi sono tanti. È una questione proprio, tu riesci a entrare proprio lì, mentre la musica svanisce, come quando si parla sopra le canzoni. Che è la cosa che ti piace più di tutte. La cosa che mi quella piace che di più. Quella che ti piace di più in assoluto. Dai, dai, ma dici dunque, come ci possono Marta contattare. Cagnola, et di Bellasio su Twitter, hashtag cancelletto RadioTube, giusto? Sai chi è arrivata su Twitter anche? No, è arrivata in studio per... Ma anche su Twitter, ha aperto un account di Twitter, Anna Migliorati. Ciao, sempre ciao. Giurato di non farlo, perché è vero. Perché avevi giurato di non Dai, farlo? Facciamo vero, proprio vero. Tutto, oggi diciamo tutti retroscena, ecco, perché? Anna Migliorati, ma l'ha mai fatto un coming out familiare, Anna Migliorati? Lo sappiamo? No, che... no, dai, dai, diciamolo, no, no, l'ha costretta suo marito, ah, e non diciamo chi bellissimo. È il marito di Anna Migliorati. L'ha costretta, ma perché avevi giurato di no? Siamo arrivati, perché c'è abbastanza lui. E lui ha molti follower. C'è abbastanza. Vabbè, adesso c'è, si sta creando una suspense sulla timeline. Dopo, almeno nella pubblicità, me lo dite così nel secondo blocco. Dico è un noto giornalista sportivo. Basta, diciamo solo questo. Allora, sport? Molti sport, molti soprattutto va calcio. Bene, ma dobbiamo allora, essere seri. Ma Anna Migliorati è in studio con noi per darci l'appuntamento. Sì, perché ormai, dai, diciamolo, il mondo è prima è di Expo e dopo Expo. Sì. Questa ormai così si divide così la nostra vita, prima di Expo e dopo Expo. E siamo a 8 minuti dopo Expo. Infatti noi ormai siamo rimasti sono fuori, cancelli chiusi, però c'è ancora un po', perché dalle 18 alle 19 c'è la cerimonia di chiusura, tra l'altro hanno annunciato un finale a sorpresa, quindi non sappiamo neanche cosa succederà. E allora noi cosa facciamo? L'ultima ora dalle 18 alle 19, la prima ora invece senza Expo dalle 19 alle 20, e vi aspettiamo Radio 24 per raccontarci la vostra coda più bella, cosa vi è piaciuta. La vostra, perché dire il vostro padiglione più bello è un po' difficile. La vostra coda più bella è banale, la coda più bella, la coda invece più bella. Magari hai conosciuto qualcuno in coda, chi lo scusa sa. Sempre sì, lì sì. E sì. Cosa, e poi ecco anche quelli a cui cominceranno a dire che manca Expo, quelli che diranno evviva è finito Expo. Noi facciamo l'ultima ora e la prima ora dopo, così vediamo che succede. Numero per gli SMS 349-238-6666. Anna Migliorati, sei preparata? Il numero per le telefonate? 800-24-0024, vi aspettiamo. Grazie Anna Migliorati, quindi a più tardi dalle 18 alle 20. Comunque. Perché adesso tu vuoi sapere chi è, non certo, lo sai. Io, come tutti gli scorpioni. Ah, curiosissimo. Allora, caro Daniele, oggi è una giornata in cui dobbiamo salutare un grande personaggio che c'è tenuto. Ma guarda, ma che dai, cominciamo poi tu subito hai scritto con un po' una cosa su Twitter molto vera, quel telefilm lì è proprio la sera di certe giornate. Allora, ascoltiamone subito, mostriamone un pezzetto alla radio. Mi dispiace perché tu mi piaci davvero. Anche tu mi piaci molto. A questo punto è meglio che me ne vada. Sei un uomo che piace. Anche per me è stato bello conoscerti. Cotoletta di vitello alla parmigiana per due. Solo per uno. Addio, Alfred. Ma... Alfred? Sì? Credo che le mangerà più tardi. Non capirò mai le donne. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Allora, è morto Almo Molinaro, che era conosciuto soprattutto per il ruolo di Alfred, il proprietario dell'Arnold's. Era conosciuto soprattutto per, esatto, per il ristorante. Sì, per il ristorante. Aveva 96 anni l'attore. Grande, grande. Sì, sì. Che allora, tenno. Tu quando guardavi Happy Days? Che, ma che no, ricordo per me, hai legato guarda, a Happy Days? Happy Days è proprio la sera, quell'orario lì indefinito tra le 6:30 e le 8:15, quando da piccolo magari avevi appena fatto il bagno dopo la partita di calcetto. Io non so tu. No, io l'ho scritto, no. Allora, io tornavo da scuola alle 4:15 perché facevo il tempo poi pieno. Poi secondo me tu ti immedesimavi molto in Johnny. Sì, assolutamente. Beh, assolutamente, uguale, peperina. L'adoravo, l'adoravo. E tornavo da scuola con mia cugina così Samantha, tardi. Sì, facevamo il tempo pieno, finivamo alle 4:15, poi giocavamo con le Barbie. Sì. E poi guardavamo c'è la mostra, anche al MUDEC. Sì, sì, che bello, che bello, non l'ho ancora vista, non vedo l'ora di andarla a vedere. E poi si guardava Happy Days e poi perché lui era uno strano oste, si dire, in America non si dice oste, era un personaggio particolare, in certe puntate non compariva mai, in certe era sempre sullo sfondo, ogni tanto era saggio, ogni tanto era un po' così. Già. Tutto il giorno che twitti già, l'hanno capita in 13 citazioni. Ma no, perché le citazioni in Fonzi sono più, perché che peraltro sta benissimo. Lo so. Beh, insomma, era bello, ma perché non, ovviamente oggi i social si sono riempiti dei ricordi. Sì, perché i social, pur essendo così innovativi, sono molto nostalgici e quindi quando accadono queste cose ricordano il passato. Adesso non te lo togliamo più. No, perché ormai sono entrata in questa atmosfera nostalgica di Happy Days. Che belli ricordi di quella televisione, di noi bambini, diciamo degli anni 80 più o meno. A proposito invece di personaggi che hanno dominato i social questa settimana, ma lui è il re di Twitter, il re di Periscope, Fiorello. Sì. Io spesso mi sveglio, sveglio la mattina e vedo e la notifica di Periscope che lui è in diretta. Mattina, racconta le cose la mattina presto. Bar. Ha lanciato, sì, ancora prima del bar, mi piace quando lui fa il Periscope con la voce, praticamente non prima ancora, della barba, quasi sempre. Non ancora alzato con gli occhi ci sposi, però no, qualche giorno fa... Ha fatto una cosa molto importante. Sì, molto seria. Perché non sembra, no? Perché tu dici, vabbè, appena sveglio, che è così un po' rallentato con la voce cavernosa. Però ha lanciato un appello molto importante. Messina senza acqua, in pochi se ne erano resi conto, in pochi avevano raccolto queste sollecitazioni che arrivavano dalla Sicilia a fare a dare la notizia, è stato proprio Fiorello su Periscope. Il problema qui credo sia anche di comunicazione, perché io l'ho saputo ieri dai social. L'ho saputo dai social. Allora, visto che queste cose ormai la stampa nazionale non se ne occupa, adesso non voglio fare il meridionale vittimista che parla sempre, che dice che al sud è così, ma è la verità. È la verità. Perché se fosse stata Roma senza acqua o qualsiasi altra città, insomma, sarebbe stata ad esempio una prima notizia. Mi dice Loredana, infatti ne ha parlato solo la Gazzetta del Sud della Sicilia. Ma questa è una cosa che non deve riguardare la Sicilia, cioè siamo nel 2015, giusto? Nel 2015 non è accettabile che manchi l'acqua. Devo dire che Fiorello ha fatto qualcosa social, di molto importante. Beh, intanto i social hanno diffuso la notizia, perché infatti anch'io ho cominciato a vedere questo hashtag Messina senza acqua. Ma bene che sia così, bene che siano i social e i giornali, i giornalisti, noi tutti. Sì, devo dire i giornalisti sono arrivati dopo questa volta. Certo, c'è anche chi appunto ha fatto sana autocritica e l'ha ammesso e si è scusato. Però appunto noi dobbiamo usare meglio i social, perché non è così sbagliato che una cosa arrivi prima sui social. Persino la conferma della rielezione di Obama è arrivato dallo stesso Obama sui social. Bisogna stare attenti ai social, usarli bene, e questa è la dimostrazione che anche noi giornalisti possiamo usarli nel migliore dei modi. Bravo comprendendo Fiorello, comprendendo le cose. Bravo Fiorello, infatti. E poi io faccio un saluto personale, uso privato di mezzo pubblico, voglio salutare la mamma di Rosario Fiorello, la mamma di Rosario di Catena e anche di Beppe, perché ci ascolta sempre, una grande ascoltatrice di Radio 24. Un abbraccio. Le mando un bacio grande. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il traffico. Bravo, traffico lì. Fata solo, fata Arò, solo. Non andate più perché i cancelli sono chiusi di Expo. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Radio Tube. E rieccoci insieme, sono arrivati ovviamente gli sms nostalgici. Abbiamo scoperto due cose. Io sì. Chi è il marito della Migliorati? Vabbè, ma dai, il grande Capuano, ma dovevate dirmelo. Ma scusa, è un segreto. Va bene, segreto. Ok, è segreto, certo. E tu che l'ha convinta scoperto? Finalmente chiocciola Anna Migliorati. Anna no, Migliorati, Pietro chioccio. Ci ha scritto sì. Al 3492386666. L'orario insindacabile memoria. Del telefilm su Rai 1, anzi sulla Rete 1, era alle 19:20. E ci ho preso, ho vinto qualche cosa. Io adesso sto cercando il numero del Radio Corriere del 77 per andare a vedere. Ma non così eravamo quasi nati, quasi. Quasi. No, vabbè, davvero, ma adesso quasi, dobbiamo quasi. Parlare di. Della telenovela. Di questo romanzo popolare che ogni abbiamo vissuto. Ogni settimana diciamo l'ultima. L'ultima, basta. Forse, ci ripenso. Chiudiamo, ci diciamo. Ma basta, se i 20. Basta. Io stamattina pensavo, ma i 26 consiglieri di Roma che hanno dato le dimissioni hanno 20 giorni per ripensarci? No, non ce la faccio più. Come ha twittato Federico Taddia, basta. Le dimissioni di Marino si sono dimesse. Si sono di me. Ma no, c'è addirittura già il nuovo commissario, il prefetto di Milano Tronca, per cui sembrerebbe finita. Ne parliamo? Ne parliamo, dai. Intanto raccontaci un po' cos'è questa storia che sono stato accoltellato, ha detto addirittura. Lui ha detto che ha avuto 26 accoltellamenti ma un solo mandante. E secondo te a chi si riferiva? Non lo so, intanto mostriamo alla radio quello sì. Che ha detto. Chi mi ha accoltellato ha, mi pare, 26 nomi e cognomi e mi pare un unico mandante. Mandante, che roba. Vabbè, chiediamo ragazzi. A qualcuno chi può essere questo mandante. Allora, non lo so se ci vuole rispondere, però possiamo dire che è una scrittrice, che è una giornalista, che a lungo si è occupata di politica e lo fa ancora con tanti ruoli. Il suo nickname su Twitter è semplicemente La Geloni. Manca un po' nella vita reale. Manca ormai la chiamano tutti La Geloni. Buonasera Chiara Geloni, buonasera Chiara. Buonasera, ciao. Che bello sentire Chiara Geloni, ma che in realtà bello. Io. Voi sorridete, voi vi sì. Twittate, perché cioè. Noi ci twittiamo ma sempre di robe sì. Di femmine, noi delle amenità sempre. Invece io con lei ogni tanto litigo ma per cose, boh, non so se più di politica, diciamo così. Allora chi sì, è il mandante, sì. Chiara? Indovina. No, non lo so, qua c'è tutta la redazione di Radio 24, c'è la suspense proprio, non si sa. Ho l'impressione che Ignazio Marino viva questa cosa come un tradimento del suo partito e del suo segretario. Ah, l'ho già sentito nominare, sì. Ma il suo segretario che mi pare coincida con la stessa persona che è anche capo del governo. Sì, sì, per statuto. Per statuto del renzismo. No, ma adesso, a parte gli scherzi. No, del PD. Del no. PD. Statuto del renzismo. Non esageriamo. No, è che lo statuto del PD, diciamo, è un po' anche lo statuto del renzismo, perché arriva. Vabbè, io comunque non entriamo in questi dettagli. Vabbè. Che è successo, Chiara diciamo Geloni? Che preesisteva quello statuto. Sì. Che cosa è successo a Roma? No, perché adesso, a parte gli scherzi, non sembrava mica solo uno il marziano, sembrava una commedia tragicomica piena di marziani. È successo qualunque cosa, tre mesi di delirio, mi pare. È abbastanza, una vicenda politica gestita malissimo, direi, da tutti i suoi protagonisti. Io non credo che sia così impossibile che un partito di fronte ai suoi elettori possa decidere anche di assumersi la responsabilità di dire che un sindaco eletto non va bene. Però attenzione, perché sai, intanto il partito di Roma è un partito commissariato, quindi il partito di Roma ha non un segretario ma un commissario che è stato nominato dal segretario nazionale. In più, le motivazioni con cui questo partito ha sfiduciato il suo sindaco eletto dal 64% dei romani prima della fine del suo mandato non sono state spiegate, perché prima si è detto che era per una vicenda di scontrini, poi si è detto che gli scontrini non c'entravano, poi ieri ho sentito che dicono che si è interrotto il rapporto di fiducia tra Marino e la città, che può essere anche vero, ma chi lo stabilisce? Perché con questo precedente adesso qualunque leader nazionale potrà stabilire che un sindaco non ha più la fiducia dei suoi cittadini. E questo mi sembra un precedente un po' pericoloso sul piano della democrazia. Ripeto, al di là delle colpe di Marino, che sicuramente ci sono state, delle insufficienze della sua azione e delle difficoltà incredibili che però ha incontrato nell'amministrare una città come Roma, perché non credo che nessuno a Roma se la caverebbe facilmente. Eh già. Infatti, ecco, sospetto che sarà un po' difficile trovare i candidati adesso. Per e infatti, era quello che proprio mi stavo dicendo. Cioè, secondo me adesso proprio tremano nessuno, i polsi, cioè, tante persone, soprattutto nel centro-sinistra. È un po' come quando a scuola ti interrogavano e vedevi che la professoressa guardava il registro e tutti guardavano il banco, si allacciavano se ne aveva scarpe. Mandati via due o tre con quattro. Esatto, esatto, dopo le interrogazioni. Ma continuiamo a mostrare qualcosa che è successo questa settimana proprio in merito all'affair Marino. Ostinatamente ho chiesto di poter intervenire in Assemblea Capitolina, la casa della capitale d'Italia, la casa degli eletti dal popolo, la casa delle romane e dei romani. Mi è stato negato e chiedo ancora perché. Perché? Prendendo atto della scelta dei consiglieri che hanno preferito sottomettersi e dimettersi. A me questa cosa mi secondo ha sempre convinto. Secondo me non se ne esce più però, no, però questa cosa. Però questa cosa, confesso che non provo nessuna simpatia per Marino, lo confesso pure, non so come ha governato Roma perché abito a Milano da qualche anno, quindi non lo so. Però questa cosa molto prodiana del dire ma sfiduciatevi in consiglio, a me sarebbe piaciuto, devo dire che sarebbe stato un motivo di chiarezza. Chiara, questa cosa che è stata detta è tornato, ne ha parlato anche il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, insomma Roma sta dimostrando di non avere gli anticorpi sulle questioni morali. Tu la condividi? Come si andrà avanti adesso a Roma? Allora, per prima cosa non, adesso senza che nessuno si offenda, spero, ma non credo che Milano possa essere indicata proprio come un modello di virtù. Adesso sicuramente l'esperienza dell'Expo oggi è stata, siamo in fase euforica, un successo. No, no, ma voi avete tutto il diritto di godervi la vostra euforia, però mi sembra che in Lombardia ci siano stati degli arresti ai vertici della regione solo 10 giorni fa, una settimana fa, quindi insomma gli anticorpi ne abbiamo bisogno tutti, diciamo, perché i virus in giro sono tanti. Poi certo è vero che Roma attraversa una crisi che secondo me è anche una crisi civica, è anche una crisi morale, e non è un caso se le ultime amministrazioni della città hanno sempre fallito, perché anche Alemanno è stata una esperienza fallimentare, Marino finisce come stiamo vedendo in questi giorni, e insomma purtroppo Roma, che ha avuto dei periodi legati anche al giubileo del 2000 di grande rinascita come città, adesso attraversa un periodo obiettivamente difficile, e in questi giorni tra poco si aprirà anche un processo che ovviamente andrà a toccare molti posti vitali del potere della città, e quindi insomma è vera questa cosa degli anticorpi, che c'è bisogno di tornare a sviluppare delle virtù civiche che si sono un po' perse. Chiara, su questo non c'è dubbio. Tu che hai frequentato tanto la comunicazione politica e inevitabilmente continui a avere rapporti con la comunicazione politica, esatto. Come vedi questo momento in cui tanto passa attraverso i social? Ovviamente la vicenda di Marino ha anche certo, suscitato ironie in qualsiasi modo. Cioè, come lo vedi tu da comunicatrice politica, in uno dei tuoi tanti ruoli, ma insomma anche questo hai ricoperto, come vedi questo momento della comunicazione? È un momento da esplorare, da vivere, diciamo, senza pregiudizi, che ha tanti pregi, e sicuramente quello dell'immediatezza, del fatto, come dicevate prima parlando di Fiorello e di Messina, che possiamo essere un po' tutti giornalisti, un po' tutti responsabili di quello che vediamo, del farlo sapere e del fare in modo che si cerchi una soluzione, del rendere urgenti alcune cose che urgenti sono ma nessuno ne parla. Quindi è uno strumento molto bello quello che offre la rete, che offre Twitter. Per quanto riguarda la politica, credo anche che sia giusto dire che questo strumento spesso, diciamo, che ci porta a banalizzare un po' i messaggi, a semplificarli un po' troppo, e non sempre la politica può essere ridotta a 140 caratteri, perché altrimenti rischia di diventare qualcosa che manca. Cioè, io penso che in questa vicenda Marino, che dicevo gestita malissimo da tutti dall'inizio, è mancata proprio la politica. Cioè, uno non può pensare di poter cacciare un sindaco facendo una battuta in TV. Uno non può pensare di difendersi da sindaco facendo un tweet che risponde a quella battuta. Bisognerebbe anche che, oltre a parlarsi attraverso i social, a comunicare con gli strumenti che ci sono, si mantenesse una capacità di guardarsi negli occhi, parlare, affrontare i problemi, che secondo me, per esempio, il Partito Democratico in questa vicenda ha dimostrato di aver perso, perché io penso che se Renzi e Marino fossero stati capaci di chiudersi in una stanza e parlarsi, magari anche 6 mesi fa, forse il PD sarebbe uscito meglio da questa vicenda di come sta uscendo in questi giorni, e anche Marino naturalmente, e anche Renzi. La stessa cosa si potrebbe dire per quello che è successo tra Renzi e Letta, certo, 3 anni fa, anche Renzi quello al governo. Stai anche sereno, è stata una vicenda assolutamente legittima, perché poteva perfino avere ragione, voglio dire, Renzi nell'esigere questo cambiamento, nell'esigere una svolta nell'azione di governo, come segretario, a pretendere anche per sé la guida. Certo però che quella vicenda fu gestita lasciando parecchie macerie sulla sua strada, che non hanno certo reso il PD più forte come partito, come comunità politica. Io ringrazierei Chiara, anzi Chiocciola Lageloni, per essere stata con noi. Grazie, Chiara. Ciao. Sono ciao, stata molto serata. Contenta di averla. Sì. Noi ci salutiamo con un sorriso. Twitter con Crozza. Sì, ma no, ma noi ci divertiamo a essere puntute su Twitter. Ci salutiamo con Crozza Marino. Con Crozza e poi andiamo direttamente e in poi, una piccola pausa. Sì, una piccola pausa e poi voltiamo pagina. Abbiamo ancora tanti argomenti. A tra poco. Eccoli qua, al traffico c'è un assessore di valore, l'omino Biscottino. Ciao ragazzi, come state? Dici, Biscottino. Ho tante idee per la testa. Ah sì, raccontacene qualcuna, Biscottino. Ho fatto preparare un nuovo asfalto, l'asfalto musichino. L'asfalto musichino? Sì, che quando le macchine ci vanno sopra parte una musichetta e quando cambia così cambia la musichetta. Che bello, che bravo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Radio Tube. What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, just don't wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. You don't want me to move, just tell me to go. What do you mean? Ti piace Justin Bieber? Dunque, io tifo per... perché fate tutto all'ultimo secondo? Tu mi hai spiegato che la radio è fare tutto all'ultimo certo, secondo. Certo, perché stiamo cambiando le scalette. Ma io mica sono Barisoni o Cruciani, io sono... diciamo spaventatissimo, perché gli stiamo cambiando le scalette. Vabbè, no, le scalette, poi arrivare... Allora, io tifo gli Urban Strangers. Ah, ok, io non ho ancora deciso. Non hai ancora deciso. Stiamo parlando ovviamente di X Factor... 9 9 XF9. Questo era Justin Bieber, perché è stato il grande ospite della scorsa settimana. Serata, sì. Live. Sembrava un po' annoiato lui, un po'. Io sono Justin Bieber. No, io sono Justin Bieber e voi Bieber. No. Però ha ragione. In effetti, su questo ha ragione. No. Chissà se l'ha incontrato il nostro Chissà. Non lo so. Glielo chiediamo subito. Abbiamo in collegamento un amico, ma che è anche il conduttore di Extra Fat. Thor. Oltre al miglior rassegna stampista di Sky TG24. E quante te lo dobbiamo ancora dire? Buonasera, se Alessia Viola. Alessia. Se la cava persino a calcetto. A Spotorno abbiamo potuto vedere che se la cava perfino a calcetto. Alessio, ciao, Alessio. Ciao, Alessio Viola. Ciao, sono il punto fermo della squadra, nel senso che sto sempre immobile lì. Ciao, sì? Ma che bello, non mi sembra vera questa cosa. Ciao, ma che cosa strana che ci sentiamo in radio, perché poi gli ascoltatori non lo sanno, ma noi ci interagiamo molto spesso in maniera così. Prima domanda, chi te l'ha fatto fare? No, su, a bruciapelo, chi te l'ha fatto fare di condurre con Mara Maionchi l'Extra Factor? È una bella domanda questa. Cioè, tenere l'ordine tra quattro giudici. È una cosa, è la cosa più. Io sono uscito più stanco dopo la prima serata giovedì scorso che dopo tipo le maratone di 80 ore con le elezioni presidente della Repubblica, di qualsiasi cosa. È faticosissimo, ci sono i giudici, poi c'è il palco di X Factor, noi poi ci saliamo quando proprio il massimo della tensione, dopo 10 minuti di quella musica di tensione pazzesca, arriviamo noi che siamo un po' più sgangherati rispetto poi a X Factor. Infatti giovedì poi ho dovuto dire che Extra Factor è il programma che a un certo punto comincia. Aspetta, io te lo mostro subito alla radio questo punto in cui hai detto proprio questo. Ecco, vai. Qua ce l'abbiamo. Benvenuti ad Extra Factor. Perfetto. Il programma che a un certo punto comincia. Meglio. Mara, bella serata, una puntata bellissima, pazzesca. Pressure on c'è stato, eh? Cosa? Il pressure on. Cos'è? Il pressure on, cioè. Senti, giornalista, parla come parli. Cioè, cos'è? Lo sai tu cos'è? È un termine veneto, il pressure on. Il pressure on. Cos'è il pressure on? È quando iniziamo a litigare, diciamo. Ah, quando iniziamo fantastico. A martellare i cantanti. Avete discusso, invece siete stati molto disturati. Ma che bello è discutere civilmente. No, discutere civilmente, però ve le siete dette, date. In maniera molto. Questo mestiere che discuti anche quando sei primo nel mondo, per cui è giusto, a qualcuno piace meno, è proprio nella regola. E una delle cose che ti volevo chiedere, Alessio, è proprio, è più difficile stare seri davanti a al TG, magari con una maratona elettorale o con quelle cose, quelle breaking news complicatissime, o tenere a bada Mara Maionchi? Perché poi lei è sempre sull'orlo della battuta a doppio senso, sì, la parolaccia, sì. Cioè... Sì, no, io ti direi, per me adesso in questo momento sicuramente più la seconda, perché poi magari sulla prima ci sono anche un po' più abituato, quindi magari è questione di abitudine, però appunto i giudici che poi in quel momento quando inizia il programma sono anche un po' stanchi e se si fatica ad averli tutti un po' insieme, poi c'è Mara che è totalmente imprevedibile, però è anche adorabile, io entro in una sorta di sudditanza psicologica qualche volta, appena apre bocca inizio a ridere. Quando ti chiama giornalista, parla come parli. Parla come parli è bellissima, parli. Ed è bellissima, nel senso io poi riderei e basta, però poi alla fine cerco di semplicemente di dare un po' di tempi, un po' di ordine a quella cosa lì, e non è facile, però già giovedì insomma ci sono un po' preso più le misure, stavo un po' più tranquillo. No, ma anche perché devo dire che l'esperimento è molto bello, anche perché nel mio piccolo ricordo un po' RadioTube, cioè nel senso che voi cercate di parlare di cose anche molto serie, i giudici per esempio sono molto più tecnici quando parlano delle esibizioni a Extra Factor rispetto a X Factor, e poi però anche molto scherzo, ci sono state anche creando piccoli personaggi così ironici, quasi satirici, e trovare l'equilibrio ovviamente è difficile, mi pare di capire che sia questo però l'idea, no, l'esperimento. Ma sì, assolutamente, anche perché poi spesso durante la gara c'è quella tensione che anche magari fa dire ai giudici, fa seguire più un percorso ai giudici, appunto anche molto legato alla gara, alle presentazioni, c'è una tensione che un pochino ovatta un po' tutto, e evidentemente poi con l'Extra Factor si riescono poi a dire, per esempio giovedì scorso Mika ha fatto tutto un discorso su Taylor Swift, ha parlato di musica anche con Elio, poi noi lo sappiamo perché poi lo facciamo anche abitualmente quando ci vediamo, cazzeggiando poi alla fine escono fuori le cose più belle, le migliori anche, no? E quindi secondo me l'atmosfera buona che mi piacerebbe e che mi piace, in cui mi piace stare è proprio quella, cioè un'atmosfera, se vogliamo, rilassata, ma nella quale poi escono fuori anche delle cose carine e divertenti. Tra l'altro c'è una cosa che mi è piaciuta molto. Beh, nell'ultima puntata di Extra Factor c'erano gli youtuber, c'era Favij, sì, c'era Lorenzo Clapis, anche perché dovevano lanciare poi Game Therapy, il loro film. Insomma, credo che sia stata un'ospitata che loro hanno fatto molto volentieri. Ma avete anche le clip di Tess Masazza, che è un'altra youtuber molto carina. Siete molto vicini, sì, al mondo della rete, al mondo di YouTube, perché immagino Mara un po' meno, diciamo, però sì, Mara era un filo fatica, più disorientata. Mara fatica un pochino, però giovedì l'abbiamo spiegato, poi abbiamo spiegato un po' bene come funzionano le cose, ma piano piano arriva anche lei, vedrai. E poi sì, no, siamo molto vicini anche durante la serata, che poi è bellissimo, perché io devo dirti la verità, cioè noi ce lo vediamo sempre, infatti ce lo siamo sempre visto. Io quest'anno ho la fortuna di vedermelo vicino a Mara Maionchi con i ragazzi della redazione, che poi mi, e io stesso con il telefonino che segue un po' quello che succede su Twitter. Quindi sì, siamo molto vicini alla rete, a quel che si scrive, e anche a YouTube. Favij è un ragazzo simpatico, molto simpatico, ieri è presentato con le sopracciglia di Elio. Di Elio. Ho detto Lorenzo Clapis, Federico Clapis, Lorenzo e Favij, ovviamente, sennò le ragazzine mi si arrabbiano moltissimo. No, sbagliare i nomi, no, perché Federico lì è la fine, Clapis. Poi, No, ma ovvio. Poi di recente li ho incontrati a Roma, me li sono abbracciati, ho fatto anche il selfie con loro, più di così, proprio una cosa tremenda. Vorrei mostrare alla radio un'altra brevissima clip dell'Extra Factor, anche con Alessio Viola. Ne approfitto per ricordare che adesso io sono passato sull'Instagram, non sono più sul Twitter. Bene questa cosa, perché è importante. Non sono più sul Twitter, sono sull'Instagram come Elio _, che sarebbe trattino basso, social. Non fate trattino alto, sennò andate sull'Instagram di Justin Bieber. Per una settimana. Ho postato il mio primo selfie. Perché io fino a ieri avevo fatto solo degli autoscatti. Ma quindi adesso selfie ho fatto. Ma con chi l'hai fatto l'autoselfie? Con Gabriel Garco. Che è diventato. Ho iniziato alla sparato, grande. Sparato. Ma il Twitter adesso, però. No, il Twitter basta. È andato bene, eh? Ok. Vabbè, perché quello con Garco. Come va? È stato ritwittato 3700 volte. Fantastico. Con Manco Obama, oh. Beh, allora, Manco Obama. Elio ha sperimentato i social, li sperimenta uno alla volta. Li indossa anche. Sulla maglietta ha scritto i suoi. Sì. Alessio, tu che cosa hai visto dal tuo osservatorio invece social? Anche se non riesci ovviamente a twittare mentre conduci l'Extra Factor, che cosa vedi dal tuo osservatorio social, parlando per quanto riguarda appunto in questo tuo nuovo ruolo rispetto agli anni scorsi? Per quanto riguarda X Factor? Sì. Beh, guarda, in realtà succede questo di strano, che io, a differenza degli anni scorsi, twitto meno, perché sto un po' più lì, certo, a sentire, certo, Mara, e stiamo lì nella stanza dove poi si registra il Mara Dixit, che è bellissimo, quindi in realtà twitto meno rispetto agli altri anni. Ma quello che mi chiede il Mara Dixit è lei che guarda X Factor, esatto. Voi registrate tutto quello che e lei dice un sacco di parolacce. Ma quante parolacce dice? Tutte parolacce. Vabbè, qualche volta sì, però alcune volte invece c'ha delle facce, c'ha delle reazioni, che cerchiamo di cogliere sempre, ed è divertente. Ma io ti devo dire che c'è un'attenzione, c'è una marea di tweet che partono dalle 9.05 praticamente per tutta la serata, che è pazzesca, cioè è proprio... Senti, Alessio, secondo te qual è il segreto del successo di X Factor? Sta più nei personaggi, nella gara, nelle canzoni? Cioè, perché è veramente, sembra quasi una serie televisiva poi alla fine. Uno, a un certo punto c'è la tensione della gara, però a un certo punto la segue quasi un po' affezionandosi ai personaggi, alle storie. Poi c'è X Factor tutti i giorni, quindi il daily, diciamo così. Perché secondo te funziona? Secondo me a vari livelli. Ci sono, per esempio, c'è chi si appassiona poi ai ragazzi, ai concorrenti, alle loro storie, ai loro stessi personaggi, quindi magari ci sono le più giovani che hanno cominciato a idolatrare il piccolo Luca, oppure le meno giovani che guardano qualcos'altro, oppure chi ama il gruppo o un over come Giosata, per esempio, che piace tanto. E quello è un livello. Poi c'è sicuramente il livello intanto di uno spettacolo televisivo che è veramente uno spettacolo degli occhi, produttivamente è bellissimo da vedere, è una cosa che, cioè, il giovedì sera si accende. In quello sembra proprio una serie TV. Cioè, per quello sembra una serie TV americana, come quelle che ci vediamo anche noi molto spesso, perché, cioè, produttivamente c'è una perfezione tale che poi standoci dentro la vedi, ecco, quello sicuramente il mio osservatorio è nel vedere una produzione pazzesca, e ogni esibizione poi è un momento... è uno spettacolo internazionale, ma lo si è sempre detto, insomma, questo lo diciamo da qualche anno, poi sembra un po' che anche già sentito dire, però sicuramente c'è la bellezza dello spettacolo, la bellezza dello show, poi c'è il meccanismo naturalmente tensivo della gara, perché si arriva poi all'eliminazione, insomma ci sono secondo me vari livelli, vari elementi per cui poi alla fine piace. Alessia, anche questo fatto, diversamente magari da altri eventi televisivi grossi, dove magari spesso anche noi Marta ci vediamo, per esempio. Sì, no? Noi frequentiamo. Sì. Bello anche l'inglese, perché Skin sta facendo praticamente un corso d'inglese, sì, mentre sì, si traduce da sola, quindi molto internazionale. Alessio, ti faccio un'ultima domanda al volo, perché adesso è proprio ora di dare la linea alla viabilità, ma volevo farti questa domanda un po' provocatoria al volo. Da grande, adesso dopo questa esperienza, cosa vorresti fare? Cioè, vuoi sperimentare ancora l'intrattenimento o comunque giornalisti si è sempre un po'? Ma no, giornalisti secondo me lo si è sempre, si rimane sempre a prescindere, insomma. Non lo so, non te lo so dire. Io cerco ogni volta di sopravvivere al giovedì sera, al giovedì notte, cercando insomma di diventare un po' più bravo presentatore di settimana in settimana, poi però non ci penso, insomma, ci sta. Sempre là. Vabbè, le prossime elezioni americane le farai con la mano sinistra dopo aver superato tutti i giovedì sera. Grazie, sì, Alessio. È il car. Per la prossima riunione è come fare il car. Car Maiocchi. Grazie ad Alessio Viola per essere stato con noi. Ciao Marta, ciao da Gianni. Ciao a tutti. Grazie. Noi ci ritroviamo tra poco, perché è davvero l'ora di dare la linea alla viabilità. Tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Radio Tube. Dobbiamo cominciare a salutare Expo. L'abbiamo già fatto un po' per tutto l'abbiamo il pomeriggio. Tra poco lo faremo con lo speciale dalle 18 alle 20. Expo è stato importante per tante ragioni. È per il tema, per la città di Milano e per il fatto che fosse un evento internazionale. Sì, in tanti hanno detto ma questo Expo alla fine è solo un Luna Park, si va a un parco di divertimenti, si va, si mangia, si chiacchiera, ma il tema di Expo era un tema importante. È un tema molto importante. L'arcivescovo di Milano, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, aveva dedicato addirittura un libro prima dell'inizio di Expo che si intitolava proprio Cosa nutre la vita, per spiegare perché i temi di Expo erano al centro delle riflessioni della contemporaneità. E io sono molto contenta di poter parlare di questo tema, perché davvero abbiamo rischiato di perdere di vista l'argomento più importante, il tema più importante, e l'abbiamo con noi, l'abbiamo in collegamento con un po' di emozione da Expo, sì, proprio per salutare Expo, per parlare del tema più importante, quello che deve stare più a cuore di tutti. Abbiamo il cardinale Angelo Scola, benvenuto nella nostra trasmissione, Sua Eminenza. A tutti gli ascoltatori, buonasera. Sua Eminenza, lei prima di Expo ha dedicato un libro al tema centrale di Expo, Che cosa nutre la vita. Il tema, secondo lei, è stato sviluppato abbastanza in questi 6 mesi e che cosa ci dobbiamo portare dentro negli anni dopo questi 6 mesi? Ecco, questo è molto importante. Cosa dobbiamo portarci dentro e come dobbiamo continuare a lavorare? Io credo che Expo sia stato un fenomeno positivo, ha mobilitato in molte direzioni la città e tutto quanto il paese. Ci sono però taluni aspetti relativi al senso profondo del tema che hanno bisogno di essere praticati più concretamente nella vita. Il tema del significato, il tema della direzione di cammino che il nutrire il pianeta ci domanda, ha bisogno di trovare risposte più chiare circa taluni grandi problemi che affliggono l'umanità. Penso al tema della fame, che porta con sé un ripensamento del rapporto tra economia produttiva e finanza, che porta con sé un interrogativo sulle politiche delle multinazionali, e da questo punto di vista la Carta di Milano si limita ad aprire uno spiraglio, ma è necessario un approfondimento ulteriore. E più in generale mi rifarei alla grande affermazione di Agostino, il quale diceva che nutre l'uomo ciò che effettivamente lo rallegra. Quindi bisogna adesso che tutte le realtà milanesi che hanno partecipato al successo di questo evento si mobilitino, ciascuno con la propria sensibilità, ma anche in unità, perché diciamo ciò che ha sollevato in attese, in domande, in criticità Expo non sia lasciato cadere. Dal punto di vista della Chiesa, noi daremo vita ai dialoghi di vita buona, così li abbiamo chiamati, un luogo di confronto laico con tutte le forze che sono in città, e poi all'interno del grande giubileo avremo il dono il 7 maggio della visita del Papa. Sono due elementi di un contributo che la Chiesa può dare, che si accompagna al lavoro diuturno e quotidiano che viene fatto in tutte le comunità parrocchiali, nelle associazioni, nei gruppi, nei movimenti. A noi sta molto a cuore all'interno di questa società civile plurale che tutti propongano e poi ci si confronti in maniera spassionata e rispettosa per cercare il massimo di riconoscimento possibile a tutti i livelli. Che dire, grazie. Sono grazie di essere stato con noi oggi, grazie davvero. Grazie a voi, grazie mille, arrivederci, grazie agli ascoltatori, grazie. Grazie al cardinale Angelo Scola, che stava anche buon lavoro. In questo momento entrando nella cerimonia di chiusura di Expo Milano 2015. Noi salutiamo gli ascoltatori, salutiamo Expo, ciao, salutiamo Expo. Noi diamo la linea allo speciale di Anna Migliorati, però rimango un po' in studio. Se ti va di rimanere, possiamo anche rimanere un po'. E diamo la linea anche al... Ci sarebbe quella partitina lì. Ah no, no, vabbè, lasciamo perdere. Quella vabbè, è una vera partita Inter. Dai, Milano, diamo la linea al GR, Roma. Ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao.